I racconti di Cristina Cattaneo, medico legale. Vittime e rei. Se uno vede le cose che vediamo noi, capisci che queste tragedie fanno parte della vita e quindi diventa forse tutto anche più proporzionato. Il fatto che la gente si uccide, il fatto che la gente fa delle cose terribili, che c'è sofferenza, che c'è perdita, ma vedi intorno a questo tutto il resto che è anche vita. L'attività del medico legale non è solo quella di studiare i morti o i resti umani, ma anche i vivi. E studiando i delitti compiuti sui vivi, il medico legale impara come si può insultare, oltraggiare e fare del male al prossimo. Tra le vittime ci sono persone aggredite per strada, gente accoltellata fuori dai bar o dalle discoteche, donne violentate nei meandri più bui della città, bambini maltrattati e picchiati da coloro che più dovrebbero amarli e proteggerli. Si deve visitarli, fotografare, repertare, tamponare per il DNA. Che ti sembra questo? Un foro di proiettili. Documentare quelle lesioni che tra anni, magari in un processo, saranno l'unica prova dei fatti. Qui la sofferenza non si deduce da arti e volti morti, inanimati, le cui lesioni puoi meticolosamente studiare senza più disturbare nessuno. Qui il dolore e la vergogna sono vivi, gli sguardi feriti, rabbiosi, sbigottiti, timorosi, inquisitivi. Timorosi, inquisitivi. In cerca di conforto e spiegazioni che non si trovano mai. Eccole le immagini a circuito chiuso della stazione di Palermo che hanno ripreso gli attimi della folle aggressione. Il branco ha colpito in Sicilia. La vittima è una ragazza rumena di 24 anni. Prende uno schiacciarifiuti d'acciaio e dopo pochi passi lo colpisce alla testa. Colpisce alle spalle con un martello, poi li trascina dentro l'atrio e si accanisce sulle persone ormai a terra. Sospettato di aver aggredito e stuprato una giovane che si era appartata assieme a sé. Lavorare sui vivi è molto diverso rispetto a ricercare prove sui morti. Mi ricordo il primo caso in cui mi fu chiesto di andare in un pronto soccorso per visitare una persona che era stata aggredita ed era in fin di vita. In Italia non c'è la cultura del medico legale in pronto soccorso come in altri paesi. La figura sarebbe molto importante proprio perché sarebbe fondamentale riuscire a documentare nei limiti del possibile, ovviamente, una ferita d'arma da fuoco, un taglio appena questa è stata formata e non dopo che sono state applicate delle cure. Quella notte i ragazzi della squadra mobile mi incontrarono nell'androne dell'ospedale di Milano, mi pare fosse Fate Bene Fratelli, mi portarono in questa stanzetta della rianimazione in cui era ricoverato questo ragazzo nordafricano giovane, molto giovane, che era stato aggredito. Il mio compito era quello di esaminare le ferite che aveva sul capo e capire se si accordavano meglio con l'ipotesi di un collo di bottiglia rotto o con un coltello. Mi ricordo che rimasi abbastanza impressionata da quel corpo che ancora respirava, anche se credo per poco, in quanto il ragazzo morì poi il giorno dopo. Alla fine raccogliemmo anche i residui sotto le unghie di questa persona per vedere poi, dopo qualche settimana, se con l'indagine del DNA, se c'erano delle tracce dell'aggressore, quindi vedere se si poteva risalire alla persona che l'aveva ferito e che sarebbe stato responsabile poi anche dell'omicidio. Nigel, tu comincia da qui, io da laggiù. Non dobbiamo lasciarci sfuggire nulla, né un capello né una fibra. Queste sono le situazioni più tragiche. Poi il mio lavoro anche sui vivi racconta di situazioni umane molto, molto varie. Mi ricordo di casi anche meno drammatici che ti mostrano le varie sfaccettature del mondo in cui viviamo e dell'Italia in cui viviamo. Una delle mie vittime, delle vittime che avevo visitato, era un ragazzo anche lui molto giovane e molto tranquillo, che mi raccontò, dovevo vederlo per valutare la gravità delle sue lesioni, era ormai stato dimesso dall'ospedale. Questo ragazzo mi raccontò con grande tranquillità e serenità come il tutto fosse ovvio e banale risultato di un lite con suo padre, durante la quale il padre si alzò, prese in mano un coltello e glielo ficcò in pancia. Da questo caso mi resi conto che per molte persone, o per alcune persone, questa situazione, questi avvenimenti sono la normalità, sono la loro realtà. Parlo con la signora Maguire. Salve, sono la dottoressa Cavano, dell'ufficio di medicina legale del Massachusetts. Temo di doverle dare delle bruttissime notizie. Alessandra Kusterman, coordinatrice del Soccorso Violenza Sessuale di Milano. Soccorso Violenza Sessuale e Soccorso Violenza Domestica sono due strutture nate, la prima nel 96 insieme all'Istituto di Medicina Legale, la seconda sulla violenza domestica nata 2 anni fa insieme al Comune di Milano. Ambedue hanno lo scopo di dare un aiuto immediatamente alle donne vittime di violenza sessuale o nell'ambito di una violenza familiare, e il servizio è composto da ginecologhe, medici legali, assistenti sociali, psicologhe. È possibile in qualunque momento chiedere consulenze a neuropsichiatri infantili o a psichiatri nel caso che la vittima sia a sua volta con una problematica psichica importante. La violenza è trasversale a tutte le fasce sociali, non c'è una categoria che è più a rischio. In genere abbiamo un'accoglienza di circa 550 tra donne e bambini l'anno, più di un terzo sono bambini che abbiano meno di 14 anni, mentre la restante parte sono donne. Abbiamo anche un certo numero di uomini che si rivolgono a noi meno frequentemente sulla violenza intrafamiliare, più frequentemente per una violenza sessuale. La maggioranza delle donne che si rivolge a noi non ha già deciso di presentare denuncia o per la violenza subita o per il maltrattamento. Noi cerchiamo di aiutarle anche a scegliere di presentare querela per il reato che hanno subito, fornendo anche una consulenza legale tramite un'associazione di volontariato che ci affianca, che si chiama SVS Donna Aiuta Donna. Il Comune di Milano, per esempio, paga i processi alle donne che decidono di denunciare la violenza, questo per dire che è un servizio che non si basa solamente su persone appunto provenienti da un ambiente sanitario, ma si avvale di competenze molto diverse, compreso quello di avvocati che appunto sono disponibili a assistere nei processi queste donne o a dare una consulenza legale prima del processo. Ciò che il medico legale fa di fronte a una donna, anche un uomo che è vittima di una violenza sessuale, è abbastanza tecnico e protocollato. Si cercano delle lesioni sul corpo, lividi, escoriazioni, segni di lacci e così via. Si fanno delle fotografie molto particolari, molto importante documentare bene le dimensioni, ci sono dei metri particolari con i quali fare le fotografie di un livido, perché quel livido potrebbe essere l'unica prova di ciò che è avvenuto. Si fanno dei tamponi delle zone in cui la persona è stata morsa, baciata, si fanno dei tamponi sottunguali per prelevare tracce dell'aggressore, e poi si fa tutta una serie di prelievi di tipo genitale per vedere appunto se ci possono essere tracce del violentatore. C'è anche tutta una parte clinica, terapeutica, la vittima viene poi curata, viene fatta una profilassi, vengono dati antibiotici, a volte anche la profilassi anti-HIV, e poi viene seguita anche da un punto di vista psicologico. Corpi. L'Italia è all'avanguardia per ciò che riguarda la gestione di queste materie, grazie alla legge di una 15 anni fa che sposta tutti gli atti sessuali da reati contro la morale pubblica a delitti contro la persona. E in più, quando le vittime sono molto piccole, le pene sono ancora più severe. Ma proprio per adolescenti e bambini, quando a volte i racconti sono fumosi o addirittura taciuti, la diagnosi di abuso sessuale è difficilissima. Per il medico legale esistono poche prove certe di questo delitto leggibile sul corpo di un bambino, anche se fiction e media insistono nel dare un'impressione diversa. La scienza ci dice tante cose e può capitare che in un certo periodo storico ci dica che i segni dell'abuso sono molto specifici e dopo 10-15 anni di ricerca che avanti si scopra che invece questi segni non sono più così significativi di violenza sessuale e di abuso. Mi ricordo che dovetti fare i conti con queste incertezze e questa evoluzione della scienza e quanto a volte sia difficile trovare delle risposte molto precise, soprattutto nel campo delle violenze sessuali su adolescenti, su bambini. In un caso specifico in cui ero stata nominata come perito. Il caso era un caso come tanti di un gruppo di bambini che si pensava fossero stati sottoposti ad abusi sessuali. C'era stato tutto un iter precedente di consulenze, di atti vari che aveva fatto sì che si creassero delle prove, tra virgolette, abbastanza importanti del fatto che questi abusi fossero veramente avvenuti. Come perito dovetti valutare o rivalutare la situazione e mi ricordo molto bene che dovevo esaminare delle fotografie e dei bambini e vedere se in effetti c'erano dei segni di abuso. Di fronte alla situazione obiettiva non si potevano riscontrare dei segni, o perlomeno segni che prima erano stati interpretati come probabilmente attribuibili ad abuso, di fronte a quelli che erano i dettami molto chiari della letteratura scientifica del momento, non erano più considerabili come segni di abuso. Quindi dovetti concludere che non c'erano segni d'abuso, ribadendo molto bene, e questo me lo ricordo perfettamente, che tutto ciò non voleva dire che i bambini non erano stati abusati. Anzi, ci avevo sottolineato parecchie volte, sia nella perizia che poi nei vari dibattimenti, che in gran parte, in una grossa parte di bambini abusati non ci sono, non rimangono segni di abuso obiettivabili che possono costituire una prova certa. Pensavo di aver fatto un buon servizio alla giustizia, dando dei dati scientifici molto onesti. Invece mi sentii come sul banco degli imputati. Mi sono sentita come se avessi deluso l'intera corte che si aspettava una risposta supportata dalla scienza sicuramente positiva. Questa fu la prima volta in cui venni in diretto contatto con la delusione, con quanto può bruciare il dover dire cose impopolari, cose che gli altri non si aspettano. Penso che sia molto importante far capire a giudici e magistrati, anche all'opinione pubblica, soprattutto per quel che riguarda questo tipo di reato che è così delicato e così difficile da gestire, che a volte la scienza non può dare delle prove, che le prove di questi atti sono da ricercare altrove. Corpi. Nigel, tu comincia da qui, io da laggiù. Non dobbiamo lasciarci sfuggire nulla, né un capello né una fibra. Che ti sembra questo? Un foro di proiettile. Mi hanno sparato. I vivi che i patologi forensi devono vedere e visitare non sono solo vittime, ma anche criminali che hanno compiuto un delitto o un'aggressione e sui quali, quando sono stati arrestati perché sospettati di aver compiuto il fatto, è necessario fare delle indagini. È necessario fare delle indagini. A volte si deve fare un prelievo di sangue per ottenere il DNA da confrontare con quello trovato sotto le unghie della vittima. Altre volte c'è da valutare l'altezza e la conformazione del viso. Altre volte ancora bisogna prendere le impronte dei denti o dei piedi. Un uomo vestito di bianco si avventa contro due passanti. Aggredita e rapinata insieme con una fidanzata di 26 sospettati di aver... Una mattina mi chiamarono in sala anatomica perché c'era un caso di un omicidio sul quale bisognava fare dei rilievi particolari sulla salma. Si trattava di una donna che aveva dei disturbi psichiatrici, una donna piuttosto anziana che viveva da sola. Era stata trovata in casa ai piedi del letto con diverse lesioni e diversi segni di morsicatura. I miei colleghi chiedevano quindi che venissero rilevati in maniera molto particolare questi segni per poi confrontarli eventualmente con la dentizione di un eventuale sospettato. Aveva lesioni da morsicatura alle labbra, alle braccia, alle cosce. Facemmo le solite fotografie con dei riferimenti metrici affinché tutto fosse documentato in maniera più precisa possibile, e poi facciamo anche dei calchi di queste morsicature per avere tutto documentato anche da un punto di vista tridimensionale. Si trattava quindi di stabilire se questi morsi erano attribuibili a un particolare signore che era stato fermato dalla polizia. Il DNA che si era estratto, che si sperava di estrarre dai tamponi che erano stati fatti intorno alle ferite, non aveva dato alcun esito, forse perché era passato troppo tempo dall'epoca della morte. Tutto si basava quindi sul confronto tra i segni di morsicatura che si erano trovati sul corpo e la dentizione molto particolare del signore che era stato fermato. Qui la palla passò all'odontologo forense, cioè quello che si occupa di studiare i denti in tutte le problematiche forensi e che si occupa anche di quella che si chiama bite mark analysis, cioè lo studio delle morsicature. E spesso si sente in televisione, nelle fiction, che i morsi possono costituire delle prove certe e possono essere attribuite con certezza al morsicatore, ma non sempre così. Danilo De Angelis, odontologo forense Labanoff. Possiamo definire l'odontologia forense come l'applicazione del sapere odontoiatrico, della scienza odontoiatrica, dell'arte odontoiatrica, ma anche odontotecnica, a questioni che hanno un qualche cosa a che fare con la giustizia. Le bite marks sono fondamentalmente l'impronta che la dentatura di un essere umano, ma anche la dentatura di un animale, lascia su un qualsiasi supporto, che poi molto spesso risulta essere la cute di un soggetto. È possibile nella maggior parte dei casi cercare di esprimere un giudizio se la lesione sia stata provocata da un essere umano o da un animale, e quindi qui si parla ad esempio della morfologia particolare delle lesioni lasciate dai canini umani o dai canini ad esempio di un gatto, di un cane, e poi anche delle considerazioni metriche, cioè vengono anche effettuate delle misurazioni su queste lesioni che possono farci capire o quantomeno farci indirizzare verso un'ipotesi di una morsicatura umana o meno. La dentatura umana è considerata un po' come le impronte digitali, qualcosa di singolare, di peculiare in ciascun individuo. Quindi poi non è detto che queste singolarità, che queste peculiarità vengano tutte trasferite sul supporto che viene morsicato o sulla cute che viene morsicata. Le lesioni che più ci interessano sono quelle inferte, diciamo, con una forza media. Perché? Perché se la forza del serramento dei denti non è sufficiente da lacerare la cute, allora che cosa succede? Abbiamo delle lesioni aspecifiche, abbiamo magari soltanto delle ecchimosi o comunque qualcosa che potrebbe essere stato provocato da anche altri strumenti, diciamo, che non siano i denti umani. Se invece la forza, la pressione applicata tra le arcate dentarie è molto elevata, allora si può arrivare anche all'amputazione del tessuto. In questo caso diventa ancora una volta molto difficile interpretare la lacerazione del tessuto quando c'è un'amputazione del tessuto stesso, quando c'è una mancanza di sostanza, per vari motivi, per l'elasticità proprio della cute e comunque perché viene strappato del tessuto. Emorragia e globuli bianchi nella ferita. C'è della terra nei bronchi e nei polmoni. Era viva quando è stata sepolta sotto quei sassi. Dopo l'autopsia andammo con il personale della scientifica a casa della vittima, di questa signora, per raccogliere altre prove. Entrando in casa mi ricordo molto bene che il frigo e tutta la cucina era tappezzata di disegni di persone, di case, di parchi, che io pensavo fossero stati fatti da bambini, invece erano stati disegnati da lei. Andammo in camera da letto e raccogliemmo tutto ciò che poteva servire. In particolare ci interessavano le impronte dei piedi dell'autore che aveva agito e doveva essersi aggirato per la casa a piedi nudi, nel sangue e nell'alcol che c'era per terra. A seguito di questo sopralluogo e essendo stata fermata una persona, che si trattava di un signore anche lui molto anziano, anche lui con disturbi psichiatrici, la polizia ci chiese di effettuare proprio un confronto tra quelle che erano le impronte dei piedi rilevati nella casa con le impronte dei piedi di questo signore e le impronte dei denti trovate sul corpo della vittima con la dentizione di questo anziano. dovevo fare questa visita su questo aggressore e mi aspettavo una persona completamente diversa. Ci si aspetta sempre di incontrare il male, tra virgolette, il cattivo. Io e Danilo De Angelis, che era il nostro odontologo forense, ci troviamo invece di fronte a una persona gentilissima, un signore molto molto vecchio, sempre sorridente, anche lui con disturbi psichiatrici, con un ritardo psichico notevole, che fu estremamente collaborante, si fece prendere le impronte ai piedi, si fece prendere le impronte ai denti e alla fine comparammo questi dati biologici e arrivammo alla conclusione che chiaro che soprattutto per i denti non si poteva arrivare con la certezza che fosse stato lui, ma c'era una buona corrispondenza e questo fu sufficiente all'epoca per fermarlo e poi comunque il signore confessò. Fu una delle prime volte in cui mi affacciai al mondo della schizofrenia, della solitudine, perché più che una storia di tecniche scientifiche, di studio delle bite marks, delle morsicature, di impronte di piedi, di studi fatti insieme, di ripartizioni fatte insieme alla scientifica, e più che una storia di buone e di cattive, di vittima e di aggressore, era una storia di due persone sole, due anziani con delle turbe psichiche che vivevano ai margini della società, che stavano insieme, che condividevano gran parte della loro giornata, storia che è finita nel momento in cui una delle due ha perso il controllo e ha ucciso l'altra. In questo caso la necessità era quella di registrare la morfologia della dentatura dell'imputato. Si usano normalmente gli strumenti e i materiali che vengono usati nella pratica clinica odontoiatrica quotidiana, quindi fondamentalmente i materiali da impronta che vengono quotidianamente utilizzati negli studi dentistici. In questura non si è fatto altro che rilevare appunto le impronte della dentatura di questo soggetto, ovviamente con qualche particolarità. Si sapeva appunto che questo soggetto probabilmente aveva morsicato la signora, aveva addirittura amputato un labbro con un morso. Quindi l'idea di infilare le dita all'interno del cavo orale di questo soggetto, insomma, destava qualche preoccupazione. Utilizzando qualche precauzione, ad esempio una specie di ditale in ferro, in modo da bloccare un eventuale tentativo di morsicatura, si è comunque proceduto al rilievo delle impronte. Sono stati poi sviluppati dei modelli, ma come viene fatto quotidianamente, ripeto, in uno studio odontoiatrico, e poi questi modelli sono stati confrontati con le lesioni presenti sulla cute della vittima. Corpi. Con l'immigrazione crescente, sia legale che illegale, capita a volte che tra gli autori di reati ci siano anche soggetti senza documenti, senza dati anagrafici e quindi senza età. Potrebbe sembrare un problema minore, ma come comportarsi di fronte a un ladro che dice di essere un minorenne e che magari non lo è? Riformatorio o carcere? I giudici hanno bisogno di conoscere l'età reale del fermato e la medicina offre strumenti clinici, ossei, dentari, per stabilire l'età biologica di una persona, ma con un errore e con dei limiti spesso sconosciuti. Uno dei miei primi casi, ero quasi alla fine della specialità, in cui mi dovetti confrontare con queste metodiche, con la valutazione dell'età dei soggetti, fu proprio al Tribunale di Monza. Era un caso abbastanza semplice in cui un ragazzo era stato beccato a seguito di un reato e il giudice mi chiedeva se si poteva valutare se aveva raggiunto i 18 anni o no. Io non volevo sapere esattamente come erano andate le cose, perché temevo di essere influenzata dal racconto, dal tipo di reato e così via. Preferivo lavorare alla cieca, non conoscere troppo i dettagli. Purtroppo il giudice mi istruì molto bene, mi raccontò per filo per segno quello che era successo e si trattava di una violenza, di un tentato omicidio perpetrato, portato avanti da questo ragazzo, tra virgolette, che dichiarava di essere minorenne. Qui mi ricordo di aver messo in atto tutte queste metodiche, avevo cercato il radiologo, avevamo fatto le lastre, i denti, al polso, alle mani, e questa persona si trovava alle soglie di 18 anni, poteva averne 17, poteva averne 18, sempre nei limiti di quell'anno di errore che il metodo ci dà. Potevo concludere per un'età un po' più vecchia, e ci poteva anche stare, quindi dire che molto probabilmente aveva 18 anni. Ma avevo tanta letteratura, tanti ricercatori che avevo letto, che dichiaravano, scrivevano che sulle etnie nordafricane bisognava fare molta attenzione, perché comunque queste popolazioni possono crescere più velocemente di altre popolazioni su cui sono tarati questi metodi, e che in effetti possono sembrare più vecchie di quanto non lo siano effettivamente. Volevo che fosse maggiorenne, questo lo volevo perché volevo che venisse punito con la pena più grave, volevo che venisse punito con i grandi, finendo magari a San Vittore e non in un carcere minorile. E qui dovetti scontrarmi di nuovo con invece quello che è l'esigenza del rigore scientifico, e la scienza mi diceva che non potevo stabilire che con certezza aveva 18 anni, anzi, tenendo conto di tutti i dati tecnici, dovevo abbassare la soglia e stabilire che ne aveva più 17 che 18. Mi ricordo che finì questa consulenza tecnica con una frase che sarebbe piaciuta, ne ero sicura, all'avvocato della difesa, in cui dicevo che non potevo concludere che avesse raggiunto i 18 anni con certezza. Fox Crime, canale 114 di Sky, vi ha presentato Corpi. Corpi è un programma di Cristina Cattaneo, ideato da Gianluca Nicoletti, regia di Paolo Corleoni, a cura di Guido Scotti.